Addio, padre, addio. Addio, madre, addio. Devo partire, devo andare, ora che ho ancora una strada da seguire. Portatemi nel vostro cuore, sarete fieri del vostro amore. Ma ora lasciatemi, lasciatemi andare a coltivare il mio grano, la mia luce. Qui non piovono stelle, non si sente il profumo del mare. Le farfalle sono strangolate nel vento, la terra arida non dà frumento. La notte fa troppo freddo, il giorno è troppo caldo. Quanto vorrei restarvi accanto, ma il cielo brucia tutto il mio tempo. Addio, padre, addio. Addio, madre, addio. Devo partire, devo andare, ora che ho ancora una strada da seguire. Portatemi nel vostro cuore, sarete fieri del vostro amore. Ma ora lasciatemi, lasciatemi andare a coltivare il mio grano, la mia luce. Nulla sarà perduto di ciò che mi avete insegnato. Ogni vostro sarà ogni mio, in ogni tempo, in ogni Dio. Sarò con voi, al vostro fianco, in ogni sempre, in ogni ovunque. Sarò per voi il vostro canto, la vostra luce, il vostro vento. Addio, padre, addio. Addio, madre, addio. Devo partire, devo andare, ora che ho ancora una strada da seguire. Portatemi nel vostro cuore, sarete fieri del vostro amore. Ma ora lasciatemi, lasciatemi andare a coltivare il mio grano, la mia luce. Addio, padre, addio. Addio, madre, addio. Devo partire, devo andare, ora che ho ancora una strada da seguire. Portatemi nel vostro cuore, sarete fieri del vostro amore. Ma ora lasciatemi, lasciatemi andare a coltivare il mio grano, la mia luce.